I comuni blocks di abitazione sono divisi in due locali. In uno, Tagesraum, vive il capo baracca con i suoi amici. V'è un lungo tavolo, sedie, panche. Ovunque una quantità di strani oggetti dai colori vivaci, fotografie, ritagli di riviste, disegni, fiori finti, soprammobili. Sulle pareti grandi scritte, proverbi e poesiole inneggianti all'ordine, alla disciplina, all'igiene. In un angolo, una vetrina con gli attrezzi del block freezer, barbiere autorizzato, i mestoli per distribuire la zuppa e due nerbi di gomma, quello pieno e quello vuoto, per mantenere la disciplina medesima. L'altro locale è il dormitorio. Non vi sono che 148 cuccette a tre piani, disposte fittamente, come celle di alveare, in modo da utilizzare senza residui tutta la cubatura del vano fino al tetto e divise da tre corridoi. Qui vivono i comuni Häftling, in numero di 200-250 per baracca, due quindi in buona parte delle cuccette, le quali sono di tavole di legno mobili, provviste di un sottile sacco a paglia e di due coperte ciascuna. I corridoi di disimpegno sono così stretti che a stento ci si passa in due. La superficie totale di pavimento è così poca che gli abitanti di uno stesso block non vi possono soggiornare tutti contemporaneamente se almeno la metà non sono coricati nelle cuccette, di cui il divieto di entrare in un block a cui non si appartiene. In mezzo al lager è la piazza dell'appello, vastissima, dove ci si raduna al mattino per costituire le squadre di lavoro e alla sera per venire contati. Di fronte alla piazza dell'appello c'è un'aiuola dall'erba accuratamente rasa, dove si montano le forche quando occorre. Abbiamo ben presto imparato che gli ospiti del lager sono distinti in tre categorie: i criminali, i politici e gli ebrei. Tutti sono vestiti a righe, sono tutti Häftling, ma i criminali portano accanto al numero cucito sulla giacca un triangolo verde, i politici un triangolo rosso, gli ebrei, che costituiscono la grande maggioranza, portano la stella ebraica, rossa e gialla. Le SS ci sono, sì, ma poche, e fuori del campo, e si vedono relativamente di rado. I nostri padroni effettivi sono i triangoli verdi, i quali hanno mano libera su di noi, e inoltre quelli fra le due altre categorie che si prestano ad assecondarli, i quali non sono pochi. Ed altro ancora abbiamo imparato, più o meno rapidamente, a seconda del carattere di ciascuno: a rispondere Jawohl, a non fare mai domande, a fingere sempre di avere capito. Abbiamo appreso il valore degli alimenti, ora anche noi raschiamo diligentemente il fondo della gamella dopo il rancio e la teniamo sotto il mento quando mangiamo il pane per non disperderne le briciole. Anche noi adesso sappiamo che non è la stessa cosa ricevere il mestolo di zuppa prelevato dalla superficie o dal fondo del mastello, e siamo già in grado di calcolare, in base alla capacità dei vari mastelli, quale sia il posto più conveniente a cui aspirare quando ci si mette in coda. Abbiamo imparato che tutto serve: il fil di ferro per legarsi le scarpe, gli stracci per ricavarne pezzi da piedi, la carta per imbottirsi abusivamente la giacca contro il freddo. Abbiamo imparato che d'altronde tutto può venire rubato, anzi, viene automaticamente rubato non appena l'attenzione si rilassa, e per evitarlo abbiamo dovuto apprendere l'arte di dormire col capo su un fagotto fatto con la giacca e contenente tutto il nostro avere, dalla gamella alle scarpe. Conosciamo già in buona parte il regolamento del campo, che è favolosamente complicato. Innumerevoli sono le proibizioni: avvicinarsi a meno di 2 metri dal filo spinato, dormire con la giacca o senza mutande o col cappello in testa, servirsi di particolari lavatoi e latrine che sono nur für Kapos o nur für Reichsdeutsche, non andare alla doccia nei giorni prescritti e andarvi nei giorni non prescritti, uscire di baracca con la giacca sbottonata o col bavero rialzato, portare sotto gli abiti carta o paglia contro il freddo, lavarsi altrimenti che a torso nudo. Infiniti e insensati sono i riti da compiersi. Ogni giorno al mattino bisogna fare il letto, perfettamente piano e liscio, spalmarsi gli zoccoli fangosi e repellenti con l'apposito grasso da macchina, raschiare via dagli abiti le macchie di fango. Le macchie di vernice, di grasso e di ruggine sono invece ammesse. Alla sera bisogna sottoporsi al controllo dei pidocchi e al controllo della lavatura dei piedi. Al sabato farsi radere la barba e i capelli, rammendarsi o farsi rammendare gli stracci. Alla domenica sottoporsi al controllo generale della scabbia e al controllo dei bottoni della giacca, che devono essere 5. Di più, ci sono innumerevoli circostanze normalmente irrilevanti che qui diventano problemi. Quando le unghie si allungano, bisogna accorciarle, il che non si può fare altrimenti che coi denti. Per le unghie dei piedi basta l'attrito delle scarpe. Se si perde un bottone, bisogna saperselo riattaccare con un filo di ferro. Se si va alla latrina o al lavatoio, bisogna portarsi dietro tutto, sempre e dovunque, e mentre ci si lavano gli occhi, tenere il fagotto degli abiti stretto fra le ginocchia. In qualunque altro modo esso in quell'attimo verrebbe rubato. Se una scarpa fa male, bisogna presentarsi alla sera alla cerimonia del cambio delle scarpe. Qui si mette alla prova la perizia dell'individuo. In mezzo alla calca incredibile, bisogna saper scegliere con un colpo d'occhio una, non un paio, una scarpa che si adatti, perché fatta la scelta, un secondo cambio non è concesso. Né si creda che le scarpe nella vita del lager costituiscano un fattore di importanza secondaria. La morte incomincia dalle scarpe. Esse si sono rivelate, per la maggior parte di noi, veri arnesi di tortura, che dopo poche ore di marcia davano luogo a piaghe dolorose che fatalmente si infettavano. Chi ne è colpito è costretto a camminare come se avesse una palla al piede. Ecco il perché della strana andatura dell'esercito di larve che ogni sera rientra in parata. Arriva ultimo dappertutto e dappertutto riceve botte. Non può scappare se lo inseguono. I suoi piedi si gonfiano. E più si gonfiano, più l'attrito con il legno e la tela delle scarpe diventa insopportabile. Allora non resta che l'ospedale. Ma entrare in ospedale con la diagnosi di dicke füsse, piedi gonfi, è estremamente pericoloso, perché è ben noto a tutti, e alle SS in specie, che di questo male qui non si può guarire. E in tutto questo non abbiamo ancora accennato al lavoro, il quale è a sua volta un groviglio di leggi, di tabù e di problemi. Tutti lavoriamo, tranne i malati. Farsi riconoscere come malato comporta di per sé un imponente bagaglio di cognizioni e di esperienze. Tutte le mattine usciamo inquadrati dal campo alla buna. Tutte le sere, inquadrati, rientriamo. Per quanto concerne il lavoro, siamo suddivisi in circa 200 commandos, ognuno dei quali conta da 15 a 150 uomini ed è comandato da un capo. Vi sono commandos buoni e cattivi. Per la maggior parte sono adibiti a trasporti e il lavoro vi è assai duro, specialmente d'inverno, se non altro perché si svolge sempre all'aperto. Vi sono anche commandos di specialisti, elettricisti, fabbri, muratori, saldatori, meccanici, cementisti, eccetera. Ciascuno addetto a una certa officina o reparto della buna e dipendenti in modo più diretto da meister civili, per lo più tedeschi e polacchi. Questo avviene naturalmente solo nelle ore di lavoro. Nel resto della giornata, gli specialisti, non sono più di 300 o 400 in tutto, non hanno trattamento diverso dai lavoratori comuni. All'assegnazione dei singoli ai vari commandos sovrintende uno speciale ufficio del lager, l'Arbeitsdienst, che è in continuo contatto con la direzione civile della buna. L'Arbeitsdienst decide in base a criteri sconosciuti, spesso palesemente in base a protezioni e corruzioni, in modo che, se qualcuno riesce a procurarsi da mangiare, è anche praticamente sicuro di ottenere un buon posto in buna. Thank you. L'orario di lavoro è variabile con la stagione. Tutte le ore di luce sono ore lavorative. Perciò si va da un orario minimo invernale, dalle 8 alle 12 e dalle 12.30 alle 16, a uno massimo estivo, dalle 6.30 alle 12 e dalle 13 alle 18. Per nessuna ragione gli Häftlinge possono trovarsi al lavoro nelle ore di oscurità o quando c'è nebbia fitta, mentre si lavora regolarmente anche se piove o nevica o, caso assai frequente, soffia il vento feroce dei Carpazi. Questo in relazione al fatto che il buio o la nebbia potrebbero dare occasione a tentativi di fuga. Una domenica ogni due è regolare giorno lavorativo. Nelle domeniche cosiddette festive, invece di lavorare in buna, si lavora di solito alla manutenzione del lager, in modo che i giorni di effettivo riposo sono estremamente rari. Tale sarà la nostra vita, ogni giorno, secondo il ritmo prestabilito, ausrücken ed einrücken, uscire e rientrare, lavorare, dormire e mangiare, ammalarsi, guarire o morire. E fino a quando? Ma gli anziani ridono a questa domanda. A questa domanda si riconoscono i nuovi arrivati. Ridono e non rispondono. Per loro, da mesi, da anni, il problema del futuro remoto è impallidito. Ha perso ogni acutezza di fronte ai ben più urgenti e concreti problemi del futuro prossimo. Quanto si mangerà oggi? Se nevicherà? Se ci sarà da scaricare carbone? Se fossimo ragionevoli, dovremmo rassegnarci a questa evidenza, che il nostro destino è perfettamente inconoscibile, che ogni congettura è arbitraria ed esattamente priva di fondamento reale. Ma ragionevoli gli uomini sono assai raramente, quando è in gioco il loro proprio destino. Essi preferiscono in ogni caso le posizioni estreme. Perciò, a seconda del loro carattere, fra di noi, gli uni si sono convinti immediatamente che tutto è perduto, che qui non si può vivere e che la fine è certa e prossima. Gli altri, che per quanto dura sia la vita che ci attende, la salvezza è probabile e non lontana. E se avremo fede e forza, rivedremo le nostre case e i nostri cari. Le due classi, dei pessimisti e degli ottimisti, non sono peraltro così ben distinte, non già perché gli agnostici siano molti, ma perché i più, senza memoria né coerenza, oscillano fra le due posizioni limite, a seconda dell'interlocutore e del momento. Eccomi dunque sul fondo. A dare un colpo di spugna al passato e al futuro si impara assai presto, se il bisogno preme. Dopo 15 giorni dall'ingresso, già ho la fame regolamentare, la fame cronica sconosciuta agli uomini liberi, che fa sognare di notte e siede in tutte le membra dei nostri corpi. Già ho imparato a non lasciarmi derubare, e se anzi trovo in giro un cucchiaio, uno spago, un bottone di cui mi possa appropriare senza pericolo di punizione, li intasco e li considero miei di pieno diritto. Già mi sono apparse sul dorso dei piedi le piaghe torpide che non guariranno. Spingo vagoni, lavoro di pala, mi fiacco alla pioggia, tremo al vento. Già il mio stesso corpo non è più mio. Ho il ventre gonfio e le membra stecchite, il viso tumido al mattino e incavato a sera. Qualcuno fra noi ha la pelle gialla, qualche altro grigia. Quando non ci vediamo per 3 o 4 giorni stentiamo a riconoscerci l'un l'altro. Avevamo deciso di trovarci, noi italiani, ogni domenica sera in un angolo del lager, ma abbiamo subito smesso, perché era troppo triste contarci e trovarci ogni volta più pochi e più deformi e più squallidi. Ed era così faticoso fare quei pochi passi, e poi, a ritrovarsi, accadeva di ricordare e di pensare, ed era meglio non farlo. Dopo i primi giorni di capricciosi trasferimenti da blocco a blocco e da comando a comando, a sera tarda sono stato assegnato al Block 30 e mi viene indicata una cuccetta in cui già dorme Diana. Diana si sveglia e, benché esausto, mi fa posto e mi riceve amichevolmente. Io non ho sonno, o per meglio dire, il mio sonno è mascherato da uno stato di tensione e di ansia da cui non sono ancora riuscito a liberarmi, e perciò parlo e parlo. Ho troppe cose da chiedere, ho fame. E quando domani distribuiranno la zuppa, come farò a mangiarla senza cucchiaio? E come si può avere un cucchiaio? E dove mi manderanno a lavorare? Diana ne sa quanto me, naturalmente, e mi risponde con altre domande. Ma da sopra, da sotto, da vicino, da lontano, da tutti gli angoli della baracca ormai buia, voci assonnate e iraconde mi gridano «Rue! Rue!». Capisco che mi si impone il silenzio, ma questa parola è per me nuova, e poiché non ne conosco il senso e le implicazioni, la mia inquietudine cresce. La confusione delle lingue è una componente fondamentale del modo di vivere di quaggiù. Si è circondati da una perpetua Babele, in cui tutti urlano ordini e minacce in lingue mai prima udite, e guai a chi non afferra a volo. Qui nessuno ha tempo, nessuno ha pazienza, nessuno ti dà ascolto. Noi ultimi venuti ci raduniamo istintivamente negli angoli, contro i muri, come fanno le pecore, per sentirci le spalle materialmente coperte. Rinuncio dunque a fare domande, e in breve scivolo in un sonno amaro e teso. Ma non è riposo. Mi sento minacciato, insidiato. Ad ogni istante sono pronto a contrarmi in uno spasimo di difesa. Sogno, e mi pare di dormire su una strada, su un ponte, per traverso di una porta per cui va e viene molta gente. Ed ecco giunge, ahi, quanto presto, la sveglia. L'intera baracca si squassa dalle fondamenta, le luci si accendono, tutti intorno a me si agitano in una repentina attività frenetica, scuotono le coperte suscitando nembi di polvere fetida, si vestono con fretta febbrile, corrono fuori nel gelo dell'aria esterna vestiti a mezzo, si precipitano verso le latrine e il lavatoio. Molti bestialmente orinano correndo per risparmiare tempo, perché entro 5 minuti inizia la distribuzione del pane. Del pane, brot, broit, chleb, pain, lechem, kenier, del sacro blocchetto grigio che sembra gigantesco in mano del tuo vicino e piccolo da piangere in mano tua. È un'allucinazione quotidiana a cui si finisce col fare l'abitudine. Ma nei primi tempi è così irresistibile che molti fra noi, dopo lungo discutere a coppie sulla propria palese e costante sfortuna e sfacciata fortuna altrui, si scambiano infine le razioni, al che l'illusione si ripristina invertita, lasciando tutti scontenti e frustrati. Il pane è anche la nostra sola moneta. Nei pochi minuti che intercorrono fra la distribuzione e la consumazione, il blocco risuona di richiami, di liti e di fughe. Sono i creditori di ieri che pretendono il pagamento, nei brevi istanti in cui il debitore è solvibile. Dopodiché subentra una relativa quiete, e molti ne approfittano per recarsi nuovamente alle latrine, a fumare mezza sigaretta, o al lavatoio per lavarsi veramente. ...